Friuli nel mondo, 265esima trasmissione dedicata agli emigrati. Omaggio a Rodolfo Kubik. Un avvenimento di eccezionale importanza è in preparazione per la metà di novembre a Mar del Plata in Argentina, l'incontro dei friulani appartenenti ai Fogolars di 5 continenti. Alle migliaia di nostri corregionali operanti nella Repubblica del Plata si uniranno i tanti che hanno già assicurato il loro intervento dall'Africa, dall'Asia, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dall'Europa e soprattutto, come naturale, dall'Italia. Un aereo speciale infatti porterà laggiù, con le nostre delegazioni, centinaia di familiari di emigrati. In tale occasione saranno trattati anche problemi riguardanti l'emigrazione, ma il convegno sarà essenzialmente un commovente incontro di cuori nel ricordo della patria lontana. Nel programma predisposto dalla Federazione dei Fogolars dell'Argentina è riservata una serata in onore del maestro Rodolfo Kubik, del quale questa rubrica già altre volte si è interessata. Giova ricordare che l'anziano compositore dirige ancora il famoso complesso Agrupación Coral de Buenos Aires, complesso che l'11 novembre al Teatro Coliseum della capitale sarà festeggiato assieme al sempre attivo e dinamico suo direttore. Vogliamo anche noi manifestare al caro maestro Rodolfo Kubik tutto l'affetto e la riconoscenza del Friuli, e lo facciamo con il quartetto canoro Armonia di Buenos Aires. Ascoltiamo il Chant de Filologiche Furlane di Zardini, la cui prima esecuzione in Friuli si deve proprio a Kubik, prima che emigrasse nel 1927 in Argentina. Un Di Zardini è anche questo canto che i quattro amici di Buenos Aires ora vi presentano, La Roseane. Arciata ne pielle frutte, bionde sanne fatte ben, cula cotule curtute, pieli spali sumbie il sen. Cum rispietti doi la ma, indomandi la che sta, Yemi dis lui le furlan, anche io soy su di la. Dalla si se l'ampeda, stabilizzo il ciani, il mio ben pale soldà, le dire si è. La